Voci di piccola impresa. Idee di futuro. Di Anna Marino. Benvenuti al ciclo speciale Sostenibilità di Voci di Piccola Impresa, dedicato oggi alle organizzazioni sostenibili private e pubbliche. L'economia circolare che porta a uno sviluppo sostenibile sposta l'attenzione sul riutilizzare, aggiustare, rinnovare e riciclare i materiali e i prodotti esistenti, grazie alla collaborazione tra persone e territori. E proprio per essere concreti bisogna replicare le idee che funzionano, e le storie di questo ciclo di puntate di Voci di Piccola Impresa dedicato alla sostenibilità dimostrano che non si tratta di parole, ma di fatti. Iniziamo dagli esempi. La prima storia di sostenibilità è quella di Parabiago Collezioni, che nasce nel 1999 dall'idea dei tre fondatori Thierry Rabotin, Giovanna Ceolini e Carl Schlecht. L'idea di artigianalità per ottenere una scarpa molto comoda e curata meticolosamente nella lavorazione a mano, realizzata utilizzando pelli e tessuti scelti nell'azienda di Parabiago. La casa madre si trova nell'Alto Milanese, una provincia nei pressi di Milano, nel distretto dell'artigianalità nato calzaturiero della zona. Per una ricetta di sostenibilità si aggiungono anche un basso consumo di energia e, insieme all'attenzione per il sociale e alla rivisitazione di tutta l'organizzazione, grazie a uno dei centri di competenza tedeschi, i Fraunhofer, ancora prima che arrivassero in Italia, ha una ricetta sostenibile in azienda, grazie all'insieme di questi fattori che formano l'ingrediente segreto, come racconta Giovanna Ceolini, una dei tre fondatori. La sostenibilità è il rispetto delle persone che lavorano soprattutto dentro, e l'ambiente esterno comunque abbiamo sempre rispetto, in quanto cerchiamo di avere meno esalazioni possibili nell'aria, per cui utilizziamo materiali rispettosi dell'ambiente. Noi non usiamo acidi, non usiamo colle aggressive, non usiamo niente di tutto ciò, proprio per non creare problemi all'ambiente. Come si è accesa la lampadina? Io e Thierry ci siamo incontrati nell'85, per cui tantissimo tempo fa, e lui lavorava per aziende francesi che utilizzavano materiali abbastanza pesanti e rigidi, per cui non davano un comfort alla scarpa. La partenza e la voglia di fare un prodotto che andasse bene per 18 ore e che la signora, nel momento in cui si toglieva le scarpe a casa, dicesse: oh, non le ho neanche sentite. Per cui la forza di Thierry è stata proprio quella di trovare la forma, il pellame, la modelleria adatta per questo tipo di donna, e ci siamo riusciti. Come avete fatto? Con che capitale e quante persone? Noi siamo partiti con 11, eravamo in un'azienda di Parabiago che produceva per molti marchi, perché era un recupero di un'azienda che era fallita, e per questo che si chiama Parabiago Collezioni, perché c'erano diversi marchi, diversi brand all'interno. È rimasto solo Thierry Rabotin, perché alla fine vendeva molto di più di tutti gli altri, per cui ne siamo diventati i proprietari completamente, senza altri soci. Capitali, i nostri, perché era un brand nuovo, cioè noi facciamo scarpe completamente in nappa, dentro e fuori, per cui sono materiali che costano, che durano, che sono morbidi. Ricerca, università. Questo l'abbiamo utilizzato per lo studio della fabbrica che abbiamo fatto in Busto Garolfo. Abbiamo contattato l'Istituto Fraunhofer tedesco, che ci ha veramente creato la fabbrica sostenibile in tutti i sensi. Era un geotermico. Questi Fraunhofer sono dei centri di competenza ed è molto importante che prima o poi ci siano anche in Italia, stanno sviluppandosi anche quelli italiani. Come mai avete chiesto a un Fraunhofer, diciamo, questo centro di competenza tedesco? E soprattutto, questo è proprio un bel progetto di sostenibilità, è originale. Che cosa hanno fatto per mettere in piedi questo tipo di sostenibilità su misura per la vostra impresa? Noi stiamo parlando del 2005, per cui all'epoca non conoscevo ancora dei centri in Italia, perché adesso funzionano molto bene, ci sono dei centri veramente super validi, tipo il Politecnico, Astra, eccetera. Però all'epoca il nostro Karl-Heinz Schlecht, che è austriaco, conosceva l'Università Fraunhofer, per quello che ci siamo rivolti a loro, e loro sono venuti a Parabiago per studiare la fabbrica ideale per noi, perché l'hanno studiata sulla nostra pelle, sulle nostre esigenze, sulle nostre capacità, perché anche il nostro tipo di produzione è abbastanza abbastanza diverso rispetto agli altri, perché noi facciamo una scarpa a sacchetto, per cui con tutte delle macchinari diverse dagli altri. Quest'anno è il vostro 20° compleanno. Quale iniziativa avete lanciato, in che cosa consiste e soprattutto chi coinvolge? Allora, abbiamo lanciato un contest dove lo stilista o la stilista, perché chiaramente è una scarpa da donna, per cui magari ci troveremo di fronte a molte più donne che non uomini, senza togliere niente agli uomini, che proporrà una scarpa, una tirira botena vista a modo suo, per cui questa scarpa poi verrà presentata al MICAN 2020 febbraio, per cui fra 6 mesi, dove ci sarà una giuria già prestabilita che farà la scelta del vincitore. Questa scarpa poi verrà prodotta e presentata nel futuro nostro, nel nostro campionario. Diciamo un po' che è un progetto di sostenibilità condivisa, insomma, ormai siamo sui social e quindi avete trovato un altro modo per portare avanti la sostenibilità, il fatto che comunque le altre persone possano partecipare anche al disegno, siano coinvolte e anche guardare al futuro, perché sostenibilità vuol dire durare a lungo. Questo è il vostro obiettivo. Che messaggio lanciate per il futuro, per invitare alla sostenibilità? Noi diciamo: venite giovani a lavorare da noi, che abbiamo bisogno di voi. Dobbiamo fare qualcosa per il nostro mondo, perché dobbiamo creare prodotti che non creino più problemi di quelli che già abbiamo, per cui sostenibili, che aiutano l'ambiente, che ci aiutano soprattutto a noi a vivere meglio. La seconda storia parla di organizzazione sostenibile nel pubblico, nel settore della viabilità, dove le idee sostenibili si trasformano in servizi rispettosi dell'ambiente. È quella di Next Future Transportation, fondata nel 2015 in Silicon Valley da Tommaso Jacquelin, laureato in fisica all'Università di Padova e in seguito in disegno industriale presso l'Università di Venezia, per sviluppare e realizzare il progetto di trasporti innovativi portato come tesi di laurea in disegno industriale. Si tratta di autobus elettrici modulari a guida autonoma, progetto che riscontra subito un certo interesse negli Emirati Arabi. Nel 2016 Next partecipa al Dubai Future Accelerator, dove il team di Next presenta i primi prototipi in scala 1-10 funzionanti al Ministero dei Trasporti della città. Firmano dunque un contratto per la realizzazione dei prototipi in dimensioni reali. Tommaso e il team italiano fondano poi Get Plus SRL in Italia per lo sviluppo e la produzione dei veicoli Next. In meno di un anno il team di Tommaso realizza e presenta a Dubai i veicoli reali funzionanti e ora tocca all'Italia. Lo abbiamo incontrato al Singularity EU Italy Summit dello scorso ottobre, evento di networking organizzato nel nostro paese dalla californiana Singularity University, dove si presentano progetti internazionali innovativi in tema di tecnologia e circular economy, di cui Tommaso Jacquelin è un testimonial. Sostenibilità è usare le risorse che abbiamo nella maniera migliore possibile. In questo caso io mi sto occupando di tutte le risorse che vengono utilizzate per il trasporto delle persone o delle cose. Quale idea però ha avuto la realizzazione tra quelle che hai avuto, visto che tu hai anche una professionalità diciamo di molte, che tocca moltissime specializzazioni? Qual è stata appunto la tua formazione e quale idea hai messo in pratica, hai scelto di mettere in pratica come sostenibilità? Sì, io ho fatto prima fisica a Padova, poi ho fatto disegno industriale a Treviso, allo UOV che adesso è a Venezia, e l'idea è stata proprio quella di capire durante gli studi in fisica come funziona la realtà. E dopodiché il disegno industriale è servito per mettere in pratica questi spunti che sono venuti fuori con fisica, quindi. Ecco, questa idea in che cosa consiste? Che cos'è questa mobilità sostenibile? Allora, nel nostro caso è utilizzare le tecnologie esistenti, quindi veicoli elettrici, veicoli potenzialmente a guida autonoma, in maniera un po' innovativa, cioè per far sì che questi veicoli interagiscano tra di loro. Quello che abbiamo creato è sostanzialmente una sorta di autobus a fettine. Ognuna di queste fettine è indipendente e possono interagire tra di loro, quindi la singola fettina può venirti a prendere a casa come se fosse un taxi, dopodiché sulle strade principali, invece di avere tante fettine separate con una singola persona all'interno, si agganciano per creare un autobus e le persone si possono anche consolidare, raggruppare in un singolo veicolo. Raggruppando le persone in base alla destinazione si arrivano a livelli di efficientamento enormi, 80% di traffico in meno, 60% di capacità in più, quindi ci sono degli enormi vantaggi. Da questo punto di vista, una persona, il processo che deve attuare per utilizzare questa mobilità, qual è? Cioè, io voglio fare un viaggio sostenibile, come faccio? Allora, con il nostro sistema è semplice come ordinare un taxi o Uber. Si utilizza l'applicazione, si dice dove sono e dove voglio andare e il veicolo mi verrà a prendere. Durante il viaggio, a un certo punto, questa è l'unica differenza diciamo con il taxi, mi verrà chiesto tramite l'applicazione di cambiare posto. i veicoli si agganciano, ma in realtà io non devo fare niente, non mi accorgo di niente, si aprono le porte, a me verrà chiesto invece di essere nel posto A2, spostati nel posto D3, per esempio. Cambio di posto, i veicoli si sganceranno, io mi ritroverò in una situazione in cui ci saranno generalmente più persone e quindi io avrò ottimizzato il traffico, ottimizzato i consumi. Quindi in realtà l'ottimizzazione avviene attraverso questo sistema. Attraverso quale sistema? Un algoritmo, un tool, che cosa? Sì, è un algoritmo che gestisce i veicoli, va a prendere le persone, ma poi dopo fa sì che queste persone, se vanno nella stessa destinazione o comunque se per un certo periodo di tempo saranno nella stessa strada, fa unire i veicoli e fa spostare le persone. Quindi decide se i veicoli devono unirsi oppure no e se le persone devono spostarsi oppure no, eventualmente in che veicolo. Avete calcolato qualche risultato, qualche ricaduta positiva da quando sarà operativo o già operativo il sistema e quando andrà a regime? Allora, sarà operativo a metà dell'anno prossimo, dovremo avere il primo evento a Dubai, in Italia sarà già operativo un po' prima a Padova e, come progetto pilota, la nostra idea è da qui a 2 anni aprire proprio la parte di produttività industriale, quindi un numero notevole di veicoli può essere erogato e venduto su strada. Secondo te allora quale consiglio per la sostenibilità? Tu sei partito dalla mobilità, deve essere a 360 gradi comunque. Dobbiamo spingerci da un certo punto di vista per essere più sostenibili e dall'altro punto di vista per trovare delle tecnologie per risolvere attivamente i problemi.